diciamo che stavolta tocca a me, no? Faccio, giro io la ruota. No, no, no. E tu poi, no, aspetta, non ho mica finito. Allora, io giro la ruota stavolta. Poi tu, fra 3 settimane. Sì, ma qui quando comincia. Ci sarà un'estrazione che poi può capitare che la giri tu, no? Capisci? No. Quindi facciamo che. Facciamo che la giro così. Io. La giro io. Bambini. Come la gira lui? Sentiamo. Ah, ti. Tacchino. Vaccino. No, tacchino, T di tacchino, è la prima volta che esce la T, mi sembra. Però T di tacchino, adesso voglio dire, vengo un po' verso di te, Drago. L'attualità, il tacchino non è di grande attualità. Non le è il giorno del ringraziamento, passate, è vero, anche quello, non possiamo nemmeno. Quindi facciamo T di tempo di elezioni, così. Vabbè, ma tempo di elezioni sono 3 parole. Io direi che con la T, che ha a che fare anche un po' con le elezioni, c'è la parola trattativa. Perché durante le elezioni tutti i partiti cercano le alleanze e quindi fanno delle trattative. È un po' difficile però per i bambini. Cioè, trattativa. Cosa vuol dire trattativa? Cioè, non è adesso così difficile. Quello che avete fatto prima per la ruota è una trattativa. Quella che toccava a me. No, quello che ci spingevamo perché toccava a me. No, quella tu mi spingevi e toccava a me perché tu fra 3 settimane poi c'era l'estrazione, bla bla bla. No? Ma lui non è d'accordo, quindi la trattativa non si fa. E alla fine? E alla fine la ruota la giro io. Vabbè, allora non è una trattativa, è una fregatura. Ma fregatura è con la F. Va bene, eh? Per me va bene. No, per te va bene. Sì, ti ho detto di sì. Ma per te va bene, continua a dire. Ma stai facendo un doppiatore, ma smetti la calma. Abbiamo fatto una trattativa, è andata bene, vedi, è facile fare una trattativa. Per me va bene anche a te. Oh, it's alright for you. Però le trattative vere, quelle di cui dobbiamo parlare qua, sono quelle di altissimo livello. Quelle che interessano i governi, le forze armate, le agenzie di intelligence. Sì, ma i bambini si annoiano. Al massimo si divertono se ci sono delle trattative in certi film d'azione, per esempio. Ce n'è uno adesso che ha vinto il Golden Globe. Il Golden Globe. Argo di Ben Affleck. Mamma mia, Ben Affleck. Parla di quella storiaccia di Carter, gli ostaggi in Iran. Cioè, tra l'altro, quella trattativa ha portato malissimo a Carter, che poi le elezioni le ha perse. Hi, I'm Jimmy Carter and you're listening to Kino Asilo ABC. ABC! Capito, bambini? Certe trattative sono pericolose ed è meglio non farle. Ma hai capito una parola grossa, però? Tipo quella della ruota. Non fatela, tanto la giro io. Però la trattativa italiana per antonomasia è quella tra Stato e mafia, di cui si parla in questi giorni. Sì. Ci sono stati. Se ne parla anche delle, solo in questi giorni. Sì, se delle sedute di processo, ma se ne parla pochissimo, effettivamente. Perché tra ammissioni, mezze ammissioni, smentite. Capito? Dopo 20 anni ormai sono dimenticate. Cioè, le stragi sono del 92, capo. Le stragi, ma anche la trattativa. Gli attentati, se la trattativa c'è stata, vuol dire che è andata la valigetta di in porto, no? Ma cosa dici, è andata in porto? Ma nel senso che se nessuno si è lamentato per 20 anni, vuol dire che a un certo punto la trattativa è arrivata a un punto in cui la gente si diceva: per te va bene, ma se per te non c'è problema, no, per me figurati. Se per voi non c'è problema, no, per noi figurati. Quindi figurati. Tamponi. E questo è il nuovo singolo del Bambino Alberto, in esclusiva su Radio 24, a Chiedo Asilo ABC. Deciso per questa estate, io resto a casa. Quanto costa? Presto. Roma? È per mia moglie. Oh. Ah, 20 sigla. Ok. Cosa? Ecco qua. Aspetta un momento. Dobbiamo prima trattare. No, no, devo andare. Come sarebbe? Non ho tempo. Allora ridammela. No, scusa, io ti ho già pagato. Bart? Che c'è? Questa qui non vuole trattare. Oh. Non vuole trattare? E va bene, dobbiamo proprio. Cominciamo. Ne voglio 20 per questa. E io te ne ho dati 20. Mi vorresti dire che non vale 20 sigla questa? No. Guardala, senti che qualità, non è mica pelo di pecoro. Va bene, te ne do 19. No, fallo come si deve. Cosa? Abbassa il prezzo, questa qui non vale 19. Ma sei appena detto che ne vale 20. Oddio. Andiamo, tratta. E va bene, te ne do 10. Così va bene. 10! Ma stai cercando di insultarmi? Me, con una bisnonna e fin di vita, 10! Va bene, te ne do 11. Vedi che capisci? 11! Ti mangi la lingua là! 11! Se mi è costata 12 a me, tu mi vuoi rovinare? 17! No, 17! 18! No, devi dire 14! Te ne do 14! 14! Ma tu mi vuoi fregare? Me l'hai detto tu di dire! Ma va là! Dimmi che devo dire, presto! Offrimi 14! Te ne do 14! Ma ne sta offrendo 14 per questo! 15! 17, ultima offerta, e se a meno te la dà, la testa me possa tagliare! 16! Figlio! È una bellezza trattare con te. Sai che ti dica? Ti do anche la zucchina. Non mi serve, ma grazie. Bart! Che c'è? Va bene, ho capito. Dove sono i 16 che mi devo? Te ne ho dati 20. Ah, già, è vero. Allora te ne devo 4. No, non fa niente, lascia stare. No, aspetta, ce l'ho da qualche non parte. Non fa niente, tienili per la zucca. 4? Per quella zucca qua? 4! Ma guardala, ne vale almeno 10 di sigla. Ma sei detto che me la davi per niente? Certo, ma come un regalo da 10. Va bene, d'accordo. Ma no, non ne vale 10, tu sei una capra, il bello è 10 per questa, hai perso la testa, impara a comprare. Allora bambini, avete capito? La trattativa. La trattativa è uno scambio. Ci si mette d'accordo, si trova una cosa. Tu dai una cosa a me e io do una cosa a te. Cioè, come dire, queste qui abbiamo qua dei lombrichi, no? Un sacco di lombrichi. E come ci dividiamo? Cioè, allora vediamo, ne prendo 5 io e uno lui. No. Come facciamo? Tu ne prendi. No. Ma se l'ho presi tutti io. Ma no, vedi. Ma no, allora uno per uno. Allora, un lombrico a testa. Uno io. Quindi tu aspetti il prossimo turno. No, facciamo uno io e uno tu. Scusami, allora. E vabbè, poi dopo, al primo turno. E poi dopo. One for you. One for me. E uno per me. One for you. Uno per me. One for me. E l'altro per me. Oh. One for you. E lì c'è quello di Jolly. Uno per me. One for you. Uno anche per me. One for me. Allora qua. A parte che la roba è mia. I vermi, i lombrichi, chi è che li ha presi? Chi li ha portati, no? Sì, ma chi ti ha portati? Io li sto portando dentro al bosco e io li ho presi tutti quanti i lombrichi. Ma tu che hai fatto? Invece... E portati sti vari. Un programma di... Io non sono d'accordo. Ma su cosa? Ma su tutto quello che abbiamo detto. Domani però tratteremo la trattativa, tratteremo un'altra lettera, un'altra parola, Drago. Non sei contento? Sì.